bella, ciao ciao ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Se io muoio da partigiano, seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. La libertà. La libertà.